I cari fedeli, questo non è Radio Pupe, quindi non rompete le palle. Lorea pertenece a un proyecto de creación de sistemas sociales cibernéticos seguros en el que las redes humanas se ven representadas de manera simultánea en un mundo virtual compartido. Su objetivo es crear una organización nodal distribuida y federada de sociedades sin territorio geofísico entre las alanos son múltiples relaciones a través de códigos y lenguajes binarios. Lorea es una palabra de origen vasco que significa flor. Chissà cosa era questo jingle finale, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Quello è solo, e sappiamo, a parte di non sapere, è una parola sola, semplice, potente anche nella sua semplicità, che è sucate. Questo è per gli ascoltatori che ci stanno insultando in questo momento. E, sul dove ci stanno insultando, la questione io porrei in quanto è proprio la tematica di quest'oggi: il vostro dio personale, in tanti sensi, poi li vedremo un po', forse, se avrò voglia, tutti. Il primo senso è il seguente: il vostro personale idolo al momento, quantomeno, pare essere un social network, che è quello attraverso il quale abbiamo annunciato anche la nostra venuta. E attraverso il quale, purtroppo, chi non segue assiduamente, visto che non c'è un palinsesto, non c'è niente, non può farlo, quindi in realtà non avrebbe saputo altrimenti di questa trasmissione. Però c'è anche un altro senso del titolo di quest'oggi, Your Own Personal Jesus. Ma andiamo per oltre. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal someone who cares. Ed era questo il primo aspetto di cui volevamo parlare, cioè il cosa spinge tante persone a vendersi anima e corpo a un sito, perché alla fine questo è vendersi proprio nel senso più economico del termine, cioè vendere la propria identità, vendere i propri gusti, vendere le proprie necessità, le proprie voglie, i propri sogni, tutto quello che ci compone alla fine in quanto persona riconoscibile e diversa dalle altre, venderlo a una società semplicemente perché ci permette di dire che ci piace una cosa, di dire sei uno stronzo a un nostro amico, di condividere un paio di foto, di fare quello che voglio essere cattivo, di fare quello che non riusciamo a fare nella vita reale. Però siccome non voglio essere cattivo, almeno non troppo, almeno oggi, firmo la canzone e parliamo dell'altro significato di oggi. Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Intanto ricordiamo a chi si lamenta l'eco, che l'eco è una scelta, è una scelta stilistica, mettiamola così. Volevamo un po' zanzara, volevamo un po' prendere per il culo quello che ci piace più, prendere per il culo. Volevamo un po' puntare sul fatto che ormai non ha molta più importanza cosa viene detto, ha più importanza, ormai quasi neanche più chi è che dice una cosa, ma è come questa cosa viene detta, che a cui anzi viene dato peso. Quindi l'effetto c'è e ve lo soppare. Sgomberato il campo da belle mantele che saranno prontamente ignorate e volutamente ignorate, passiamo al secondo significato del titolo di oggi, Your Own Personal Jesus. Perché diciamo che i social network sono tanti, intanto. Noi ne abbiamo usato uno finora, probabilmente le persone che si stanno lamentando del fatto che io sono qui a trasmettere non capendo che questa non è la trasmissione che loro si stanno aspettando. Sto riuscendo a parlare sincronizzandomi con l'eco. È bellissimo questo, secondo me. Secondo voi no, probabilmente, però me ne fatto. Diciamo, il social network che noi abbiamo eletto è stato eletto non per merito altro che il fatto di avere tanti utenti, quantomeno adesso in Italia. Perché comunque noi abbiamo il brutto vizio di ergere quello che vediamo a realtà assoluta. E quindi non pensiamo che magari in altri posti non è assolutamente così, per esempio ci sono dei social network molto più diffusi che però hanno il demerito di essere in Russia, di essere in Cina, di essere in Cina, ma comunque in Asia, che per Facebook è un mercato ancora, diciamo, quasi vergine, sta espatriando anche lì, ma nel frattempo sta spopolando altrove, anche con dei bei numeri. Ma non è di questo che vogliamo parlare, quanto invece del fatto che non è ovviamente l'unica possibilità. L'unico problema di un sistema del genere è la massa critica, cioè il numero di utenti che lo utilizza alla fine, no? Ed è quello su cui fanno spacchio i vari social network. E ce n'è uno che ci è saltato all'occhio recentemente, che si chiama L'Oreal. Non so esattamente quale sia la pronuncia, è una parola basca. Io penso che si dica L'Oreal e quindi lo chiamerò così. Se volete, siete smanettoni e volete vederlo, potete farlo, visto che è un social network open source, diciamo. Ma la cosa che ci è piaciuta di più è il fatto che questo social network è distribuito. Cioè, ci sono già vari nodi. Ce n'è uno che si chiama Ecoseni, uno che si chiama Moneda CN, uno che si chiama Intermondes, uno che si chiama Rexim, uno che si chiama N-1, che in particolare è quello utilizzato dagli Indignados spagnoli in questo momento. Ma soprattutto, se non ti piace uno di questi nodi già esistenti, puoi tranquillamente mettere su un server, se ne hai la possibilità e le capacità, e unirti a questa rete e gestire i tuoi utenti come vuoi. Quindi in pratica puoi federarti, puoi creare altre reti, puoi mandare a fanculo questi se ti stanno antipatici e creartene un altro. Diciamo che alla fine dipende solo da te, però hai la possibilità di farlo. Ed è quello che secondo me è quello verso cui, non dico dovremmo tendere, ma quello secondo cui tenderemo nei prossimi anni. Anche perché in realtà puoi tranquillamente gestire diversi, cioè puoi fare il classico social network tipo minchione, tipo Facebook, mi piace, non, condividi i feed, eccetera eccetera, puoi fare, puoi gestire blog, puoi gestire chat classiche come MSN per esempio, stile MSN, puoi gestire, puoi creare un'applicazione che si basi su quella base, volevo evitare questo gioco di parole ma non ci sono riuscito, si basi su quella base di utenti per fare un po' quello che cazzo vuoi e reinventare internet sostanzialmente per, in base ai tuoi scopi e alle tue necessità, che alla fine è il motivo per cui è nato, no? Una bolognese me la fate fare? Anche questa è una canzone ecologica. Esisteva in quel di San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, una fiera mercato molti anni fa di prodotti ortofrutticoli. Cioè in quei tempi così belli, felici, eccetera, non esisteva il denaro, ogni scambio avveniva in natura. E uno andava là con queste cose, si scambiava e tornava a casa contento, no? La canzone, nella fattispecie, narra la storia di un giovinetto che va là con due piccioni da vendere, scambi due piccioni con una giovinetta con quello che ne segue. A Sanste alla fine San Lazzaro, oi di, oi da. A Sanste alla fine San Lazzaro, oi di, oi da. A io comprè du bipi san cumiera mbi cumiera mbang. A io comprè du bipi san cumiera mbi cumiera mbang. Molto facile. Dice, sono stato alla fiera di San Lazzaro, lì o là, ho comprato due bimpiccioni, com'erano belli, com'erano buoni. La scelta fuori una ragazzola, oi lì, oi, cioè balsa una sovrina. La scelta fuori una ragazzola, oi lì, oi là. Maccia vipi dupi san com'eran bim, maccia vipi dupi san com'eran bim. Cosa volete per i due piccioni, domanda la ragazza. E il giovine che non sa cosa volere, cioè probabilmente il piccione era messo in proibita, che non poteva essere scambiato in pubblico, difatti i giovani se la scambiano nascostamente, alla porta ed entra una porta, oi oi la, la porta ed entra una porta, oi oi la, sola stanela zoi bragantu mieram bi mieram ban, sola stanela zoi bragantu mieram bi mieram ban. Cioè, mi dispiace che voi non abbiate capito, probabilmente. È una danza, una danza rituale, fallica, molto antica. Sulla sottana giù le braghe, dice la canzone. C'è questo bel movimento, così, no? Tac, tac. Mentre i giovani sono lì che si scambiano il piccione, compare il terzo incomodo, il voyeur. Che poi una voyeuse, una laida vecchiaccia, la scelta fuori una brutta facciassa, oi lì, oi là, scelta fuori una brutta facciassa, oi lì, oi là, bancia fedus purca cion cumieran bi cumieran bon, bancia fedus purca cion cumieran bi cumieran bon. Molto meravigliata, che dice, cosa fa, sporcaccioni. Il giovane sorpreso in questa... Esatto, batte tutti, cioè dicevo ultimamente che a Monaco non è ancora prevista come specialità olimpionica la cittura della fessa. Sono 3 secondi, zip, è un lampo, velocissimo, 3 secondi, 2 decimi, e dice la prima cosa che gli passa per la testa, siamo qui che giochiamo alla merla, oi lì, oi là, siamo qui che giochiamo alla merla, oi, ma la vecchia non si fa ingannare da queste cose, la vecchia che... Dice, ragazzo mio, io, ai miei, dice, voi non state giocando la merla, buffoncelli, altro gioco, c'è la merla e mi puoi ancumiera, mi cumiera, c'è la merla e mi puoi ancumiera, mi cumiera. Questo stacco della lingua mia. Quaiam, c'è la merla e mi quaiam, vuol dire, c'è la merla e i miei quaglioni, cioè i quaglioni sono delle quaglie. Dice, la vecchia dice, sì, la merli, i miei coglioni, no? Cioè, cita, così. quella vecchia ricorda, con leopardi le rimembranze, dicevamo, vero? Anche a me quando era giovinassa, oi lio, quando ero giovinaccio, no? Anche a me quando era giovinassa, oi lio, oi la. A noccia pedi bip sulon cumi eran bim cumi eran bon, a noccia pedi bip sulon cumi eran bim cumi. Cioè ne ho presi dei pestoloni. Ora si ignora esattamente cosa sia il pestolone. Il pestolone potrebbe essere, vedi tu, un sacerdote di questo culto piccionico che esisteva là. Oppure pare però da alcuni studi più recenti che il pestolone sia un'antica misura bolognese, esistevi il braccio, la pertica e il pestolone, per grosso modo. Però la vecchia nel finale svela il suo laido retroscena, non nel senso buono della parola, cioè è discutibile il senso buono, trattandosi del retroscena della vecchia. Però c'è da spiegare cos'è prima il fittone, chiamasi fittone il normale paracarro, cioè quelle cose così, no? E anche adesso lasciamo una ciasta, oi oi la. E anche adesso lasciamo una ciasta, oi oi la. Am la sfrai contro i fiton, come eran bi, come eran bu. Am la sfrai contro i fiton, come eran bi, come eran bu. Volete del gran sesso? È richiesto a piene mani, se volete lo do. La canzone sul sesso non è una vera canzone, per chi non la conosce, è un blues parlato, un talk blues che parla di questo problema che chi più, chi meno, ci attanaglia tutto. Io fui attanagliato al problema del sesso una volta, mi sembra nel 52, però ne conservo buona memoria ancora per poterne parlare. C'è una cosa di moda adesso, fatto sicuro, è proprio il sesso, credo, quello a vagoni. Anche Alighieri col sesso prendo e la Divina Commedia dispense vendo. La carne in fiamme, peccatori e peccatrici, sensazioni paradisiache. E vendono, ma moltissimo. Comunque alla scuola media statale hanno iniziato un piano di educazione sessuale. Sembra impossibile, eppure vero, ed ha voluto dare al ministero. Non ci credete? Andate e vedete, hanno già stanziato 2 miliardi per comprare i cavoli. Ma questo fatto dell'educazione non è ben visto dalla nazione, morte alla pillola atea e nociva. Per l'aspirina si gridi evviva, che poi fa lo stesso effetto. Non bisogna prenderla prima o dopo, bisogna prenderla invece. E passano anche quei noiosi mal di testa, come disse Maria Antonietta. Italia per bene, ti sveglia, ti desta, intendi l'orecchio, solleva la testa. I giovani d'oggi hanno scoperto vergogna. Chi porta i bambini non è la cicogna. Vedo sempre dei visi meravigliati a questo punto, io non lo so come sia. Fatto anticattolico e comunista. Il ministero delle cicogne è in crisi. Ho visto in giro un pio proclama che al religioso buon senso chiama. fare l'amore fa male al cuore. Dove entra il sesso, metaforicamente parlando, entra il dottore. E non si parli soprattutto di antifecondativi, visto che i bimbi nascono sotto i cavoli, al massimo di anticlitogamici. Ma c'è sempre qualcosa che dà un dolore a qualcuno. La corruzione, quando è iniziata, non c'è più niente che può fermarla. Lì dice facile, uno comincia e poi non smette più, capisci? È difficilissimo fermarlo. Degli amici, delle sere, trattenuti per le spalle. Ma dove vuoi andare? No, io ci vado. No, sta con noi, no. Quelle scene terrificanti, veramente. No, capisci, uno comincia con quelle cose leggere che fa verso i 16-17 anni. Poi si abitua, prende il vizio e non c'è più niente da fare, diventa un drogato. E dà la sua fazione. Da perdita della memoria, perdita dei riflessi, poca voglia di lavorare, vengono dei buchi così della pelle da tutte le parti. Un mio amico li ha avuti. Beh, poi che faccia male, è verissimo. C'è stato un rapporto americano, tipo quello sul fumo. Avete sapete il famoso rapporto sulle sigarette? Dice che scopare fa male da morire, i dottori consigliano di farlo almeno col filtro. Dice si sente un po' meno, però la salute ne guadagna. La corruzione quando è iniziata non c'è più niente che può fermarla. Tutti di sesso siamo ammalati dal divorzio, ci è già arrivati. Ciò che Dio unisce, l'uomo non sciolga. Cioè, è molto meglio un pio colpo di pistola che col fatto del diritto d'onore, con un mese e mezzo sei fuori, te ne fai. E quindi uniamoci gridando al mondo, morti il sesso, serpente immondo, basta l'amore, fate la guerra! Sano rimedio per questa terra. Non più sovrappopolazione, non più divorzi, la coscienza a posto, e ci penseranno i superstiti. Non più sovrappopolazione, e ci penseranno i superstiti. Vabbè, oggi era una puntata un po' così, no? Un po' di fretta, un po' strana, non, ovviamente non preparata come al solito, però di diverso rispetto al solito c'è il fatto che sono le 20.07, abbiamo fatto penso una mezz'oretta finora, di cui quattro canzoni. E vogliamo al termine. Termine che in realtà non esiste in quanto tale, ma è semplicemente perché smettiamo e ce ne andiamo stasera, ce ne andiamo a fisica, dice che c'è una festa simpatica, non lo so, vedremo, io non precludo niente, potrebbe essere simpatica, ve lo consiglio, se volete insultarmi casomai in diretta, visto che vi ho consigliato di andare là, potete farlo. Ma soprattutto vi do una notizia in anteprima. Molto probabilmente, non è proprio sicuro, ma molto probabilmente ci sarà un concerto in Piazza Carlo Alberto il 3 luglio, organizzato da Radio Matria, da Onda Radio, dal Movimento Studentesco, dall'Arci, quindi sostanza Onda Radio e Radio Matria, in sostituzione, non so se si può dire questa cosa, non so se è proprio vero, forse sì, forse no,

a giocare con la proboscide del domatore d'elefanti. Mi sono passato un po' di trucco e ho tirato avanti. Solo sorrisi, tutto lo spettacolo, non una lacrima, non un dolore, al massimo qualche spruzzatina d'acqua del fiore di plastica che c'avevo sopra il cuore. Sono insensibile, sono razionale, sono amorale. Signori miei, io non posso piangere per questioni di sicurezza nazionale, che se mi metto a piangere io, se io mi metto a piangere, se io mi metto a piangere io, si allagherebbe tutta Roma, te porterei in gondola a Piazza Navona, si allagherebbe pure il deserto e la Sfinge nuoterebbe in mare aperto, si allagherebbe l'universo, per firmamento brillerebbe da sommerso, si allagherebbe il paradiso col pianto mio. E son pagliaccio, mica Dio.